con Giulia Esposito di Lab 80 Film per parlare del film L'ingrediente segreto che sarà al cinema da giovedì 21 febbraio 2019. Ben trovata. Esattamente, grazie, grazie mille, come sempre. Presentiamolo. Certo, l'ingrediente segreto innanzitutto è il film che è stato vincitore la scorsa edizione di Bergamo Film Meeting, ma ha portato a casa anche diversi altri premi in molti festival internazionali. È un film macedone che parla di Macedonia, ma è anche una commedia amara che rivela uno spaccato della società, contiene però anche appunto dei grandi temi dell'amore tra padre e figlio, dell'amicizia e della speranza che può nascondersi dietro le cose più inaspettate. La storia di Vele, che è un giovane operaio, lavora in un deposito ferroviario e da diversi mesi non riceve lo stipendio. Ha un padre malato di cancro, e lo Stato non passa le medicine e Vele si trova appunto in questa situazione assolutamente difficile e di sofferenza. Quando per una coincidenza entra in possesso di questo quantitativo di droghe, di diverse sostanze illegali, tra cui un pacchetto di marijuana. Naturalmente, nella disperazione, Vele prova a trarre da questa opportunità la possibilità di curare il padre, non riuscendo però a improvvisarsi come spacciatore. Decide di tentare con questa marijuana di alleviare almeno i dolori al padre e a sua insaputa, perché il padre non accetterebbe mai una cosa del genere, decide di preparargli questa torta dall'ingrediente segreto. Da qui in poi naturalmente non vorrei svelare nulla, se non che si dà il via a tutta una serie di equivoci per cui Vele si ritrova non solo inseguito dai trafficanti di droga che vogliono rientrare in possesso del loro malloppo, ma anche da tutta una schiera di persone, anziani, soprattutto anziani, comunque malati, disperati, ognuno con il proprio problema, che diffusasi la voce di questa torta miracolosa, vogliono la loro parte in un paese dove appunto si sente forte nel film questa sensazione delle persone abbandonate dallo Stato, della difficoltà appunto del sistema sanitario, la difficoltà ad accedere alle cure sempre più costose e al diffondersi invece di ciarlatani che spazzano rimedi miracolosi che non hanno alcun fondamento. E quindi diciamo che in questa situazione si svolge questa vicenda che è poi in sostanza una sorta di commedia degli equivoci, equilibrata appunto però anche con il dramma e con una regia poi di Stavreschi, questo è il suo primo, è il suo esordio alla finzione, ma ha girato diversi documentari e spot, quindi una sua capacità anche di rendere questo equilibrio appunto di aspetti tra dramma, ironia, tra spaccato del reale e diciamo storia appunto così, commedia dell'equivoco e dell'imprevisto, con una grande capacità di rendere appunto la regia e il montaggio molto semplici, con personaggi credibili, dialoghi incalzanti e appunto molto veri, molto umani. Com'era arrivato al Bergamo Film Meeting? Questo film è stato, prima di Bergamo Film Meeting, è stato vincitore anche a Thessaloniki e era stato anche in altri festival, ora dovrei ricorrere un po' alla mia memoria, era stato a Tallinn, insomma ha girato molto per i festival e al meeting ha vinto poi il premio del pubblico, il regista è stato presente, segnalo che sarà presente anche per l'uscita del film questa settimana, in particolare sarà al Cinema de Tour sabato 23. Ecco, diciamo un po' della distribuzione, quale sarà il tour? Allora, il regista non farà un vero e proprio tour, però appunto sarà presente all'anteprima romana, mentre per tutte le altre città, allora io inviterei a visitare il nostro sito su lab80.it/distribuzione, noi teniamo aggiornate le sale in cui il film arriverà. Al momento quante sono? 15 sale. sicuramente Roma, Milano, Bergamo, Perugia, Genova, a Bologna, uscirà a Verona e a Modena, a Catania, a Cagliari, insomma, ci sono un po' di città che appunto terremo aggiornate noi come distribuzione. Siamo soliti che mantenere il film disponibile a lungo, quindi probabilmente anche nelle prossime settimane ci saranno poi delle novità. Insomma, il film non uscirà negli stessi giorni in tutte le città. Per questo appunto invitiamo sempre a tenere d'occhio la situazione. Bene, allora ricordiamo l'uscita in sala del film L'ingrediente segreto al cinema da giovedì 21 febbraio 2019 per la regia di Stavreschi. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Esposito di Lab 80 Film che lo distribuisce. Giulia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao.